Complicata, nel senso che l'attacco che è stato portato ai movimenti per il diritto all'abitare, ma pensiamo insomma in generale allo spazio agibile nella città di Roma da parte insomma dei movimenti che producono conflitto su varie tematiche e su varie questioni, e appunto è stata una settimana che ha visto intanto la necessità di provare a chiedere con forza la liberazione di Paolo, al quale ieri sono stati tolti i domiciliari ed è stata sono state applicate misure meno restrittive con le firme due volte a settimana, e quindi insomma ci siamo concentrati da una parte sul processo che sta iniziando, che è stato istruito e che pensiamo sia un processo tutto politico, perché appunto le motivazioni che hanno spinto il giudice a convalidare gli arresti sono motivazioni che vanno ben al di là insomma di quanto accaduto in piazza, dove è stata evidente a tutti l'aggressione da parte delle forze di polizia, una piazza pacifica, assolutamente tranquilla, una piazza fatta di uomini e donne e anche bambini che volevano appunto nella giornata di venerdì segnalare davanti al CIPE, a questa sede del governo italiano, come appunto le risorse pubbliche non possano essere sprecate per far fare i soliti guadagni, insomma i soliti soggetti che decidono le sorti di questo paese, a danno di una popolazione che viene repressa in un'area militarizzata appunto come quella del finto cantiere dove stanno provando a fare il TAV. Su questo fronte insomma appunto le novità giudiziarie ve l'ho appena dette, però chiaramente ci preoccupa il clima, perché il clima è quello appunto dell'estensione del teorema Caselli, che è partito appunto dalla vicenda Notav, ma insomma anche le sentenze sul 15 ottobre e il clima che si respira nel paese nei confronti dei conflitti e dei movimenti sociali è un clima allarmante, è un clima preoccupante, un clima che ci deve portare tutte e tutti a riflettere bene nei prossimi giorni e nei prossimi mesi sugli spazi appunto di agibilità, sulla libertà di movimento. Tra l'altro a Roma in queste ore stanno succedendo cose che non abbiamo ben capito, però si parla di un trasferimento del questore, di un trasferimento del prefetto, per cui ecco c'è un clima complicato, probabilmente il governo Monti si prepara a inasprire ancora di più la repressione e a provare a fermare un conflitto che è inevitabile rispetto alle misure che questo governo sta prendendo, misure economiche insomma, che danneggiano milioni di precari in questo paese e che invece vanno a vantaggio delle banche, della BCE, dei poteri forti insomma che si stanno imponendo in Europa. Detto questo, domani arriviamo a questa manifestazione passando per diversi momenti cittadini in cui realtà differenti tra loro si sono confrontate, però hanno deciso di stare insieme sabato perché hanno deciso di respingere questo attacco che, ripeto, nello specifico si è concentrato contro i movimenti per il diritto all'abitare, con gli arresti davanti al CIPE, l'aggressione, ma anche appunto poi con lo sgombero della tendopoli e il tentativo di sgombero fallito a Casa al Boccone, per cui domani saremo tutti in piazza con questa manifestazione ampia che vuole arrivare al centro della città. Da questo punto di vista c'è in queste ore, da due giorni, una contrattazione che sta continuando con la questura, perché noi abbiamo chiesto di arrivare a Piazza Venezia, il centro della città, vicino alla prefettura e vicino al Campidoglio, ma invece ci stanno opponendo resistenza da questo punto di vista, prima argomentando con la questione del protocollo che regolamenta i cortei, chiaramente un protocollo che non ha motivo di esistere, che è stato bocciato anche dal TAR, che peraltro noi non abbiamo mai sottoscritto, per cui non ci riguarda, insomma abbiamo sempre detto in questi anni nei tentativi di Alemanno di respingere con la complicità anche di pezzi sindacali appunto la possibilità di manifestare al centro di Roma, e questa mattina è spuntata la novità, chiaramente sono tutte insomma motivazioni abbastanza strumentali, della maratona che si svolgerà domani domani e dopodomani al centro di Roma, per cui ripeto, in queste ore stiamo ancora cercando di capire quale sarà l'arrivo del corteo. Chiaramente la tensione che abbiamo tutti e tutti è quella di riprendersi la città, è quella di non mollare di un solo centimetro, di affermare che non è possibile immaginare che non si possa più andare al centro di Roma a manifestare. E niente, per cui insomma invitiamo tutte e tutte domani a essere presenti con forza, perché ripeto, non è un meccanismo, non chiediamo una semplice solidarietà con i movimenti per il diritto all'abitare che hanno subito l'attacco, ma appunto invitiamo la città tutta a esprimersi di fronte intanto alla necessità di riconquistare spazi di agibilità e in più insomma fare un ragionamento più complessivo, che quello che noi abbiamo voluto porre con forza con l'iniziativa al CIPE e che riguarda la gestione delle risorse pubbliche, se è possibile appunto che in un paese profondamente in crisi i soldi evidentemente ci sono, ci dicono se non ci sono continuano a fare tagli sulla spesa sociale, sulle scuole, sui nidi, sui servizi, la sanità, le case popolari appunto sono scomparse proprio dall'agenda politica di questo paese, e allora è chiaro appunto che vogliamo mettere bocca sulle risorse, risorse che non possono appunto essere destinate al TAV, che è un'opera inutile e dannosa, e non lo dicono insomma solo le popolazioni della Val di Susa ormai, ma lo dicono anche l'Economist e il New York Times, e quindi è necessario appunto che tutte e tutti prendano parola per provare appunto a scardinare questo meccanismo di smettere di subire le scelte di un governo che d'altra parte è un governo tecnico, che si definisce tecnico, che abbiamo però visto insomma che ha un volto pesantemente politico, però provare a insistere ripeto sulla necessità di prendere parola e di decidere sul nostro futuro. Assolutamente, l'invito alla partecipazione alla mobilitazione è ovviamente anche il nostro, fra l'altro riprendiamo quelli che erano un po' i nostri timori sia sulla gestione dell'ordine pubblico specificatamente per la giornata, ma sia anche in generale per il clima che si respira, che è davvero brutto. Stamattina, parlando di altri argomenti, abbiamo affrontato questa questione delle sostituzioni di prefetto e questore, che insomma non lasciano presagire granché di buono, così come niente di buono lascia presagire la sentenza di questa settimana sul 15 ottobre, dove è stato condannato un ragazzo a una pena assolutamente sproporzionata e spropositata rispetto anche a quelle che erano le indicazioni del PM. Quindi insomma uno scenario abbastanza oscuro in questo momento, a cui bisogna... Oscuro e inquietante, infatti, è, insomma, che ci deve far ragionare su quello che ci aspetta nei prossimi mesi, perché appunto immagino insomma avrete approfondito questa mattina, però le motivazioni che parlano insomma della rimozione del prefetto e del questore riguardano l'insoddisfazione di questo governo rispetto alla gestione dell'ordine pubblico, e per cui appunto immaginiamo che il segnale da questo punto di vista non possa che essere peggiorativo, appunto Tagliente non è stato in grado, nonostante tutto quello che ha prodotto in questa città, di soddisfare queste necessità repressive, chiaramente ci preoccupa insomma lo scenario che si potrà aprire da domani.